Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Hey! Che siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! In questo episodio, Anna. Mi chiamo Anna. Faccio l'insegnante, insegno inglese. Ho 48 anni. La prima cosa che vedo quando esco di casa è la strada, le case di fronte e... poi basta fare qualche passo però e si vede Salerno dall'alto. Vivo a Giovi, nella zona collinare di Salerno. La mia giornata tipo inizia con un bicchiere d'acqua, un caffè e finisce con qualche pagina del libro. Nel mezzo la mattina vado a correre, cucino, preparo lezioni e dopo pranzo esco e vado al lavoro. Quando torno ceno con la mia famiglia e poi guardo un po' di televisione, leggo. Idealmente mi piacerebbe vivere in una piccola casetta nel bosco sul lago. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate. Sono nata in Polonia, i miei genitori sono polacchi. Quando mi chiedono di dove sono, rispondo: vengo dalla Polonia ma vivo a Salerno. Parlo 5 lingue. Di solito non canto sotto la doccia, però in macchina sì. Specialmente quando vado al lavoro canto e la canzone che canto spesso Crazy di Aerosmith. Yeah, baby. Allora, il primo ricordo è quello della mia famiglia, il secondo una giornata di primavera al mare, il terzo una mattinata nel bosco. Gli esseri umani sono creature meravigliose, dotate di cervello per poter ragionare, per poter imparare, per poter ideare le cose meravigliose. Hanno anche il cuore per vivere le emozioni bellissime e direi che sono tutti uguali, assolutamente. La cosa più inspiegabile dell'Italia probabilmente a volte è l'incoscienza, magari sembra quasi come se non ci si rendesse conto quanta bellezza, quante meraviglie ci sono qui e non capisco come non si fa tutto per salvaguardare questa bellezza naturale e storica. Il raggio laser lo punterei contro le guerre, contro le armi. È la cosa più brutta, è la guerra. Gli stranieri sì, probabilmente esistono, visto che sto rispondendo a queste domande. Probabilmente sì. il colore più bello del mondo, direi il verde. Cosa vedo con più chiarezza? Vedo che il mondo è un posto meraviglioso, è l'unico modo per salvarlo e rendersi conto che siamo tutti uguali e che solo insieme possiamo migliorarlo, possiamo stare bene, possiamo essere felici tutti, però dobbiamo sentirsi parte di un'unica grande famiglia, in un'unica casa che è il nostro pianeta Terra. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Scalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahbub. Per ascoltare e condividere i nostri podcast, vai sulla pagina Facebook di Radio Antenna Migrante o su www.stranierincampania.it. RAM, Radio Antenna Migrante.